visto che sta cominciando la seconda settimana di programmazione, parliamo dell'undicesima edizione di Shore Theater alla Pelanda qui a Roma fino al 18 di settembre. Ne parliamo con Fabrizio Arcuri. Fabrizio, ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno a voi. Tutto bene? Tutto bene. Allora, intanto io parlerei con te, farei un minimo di bilancio a metà della corsa rispetto a quest'undicesima edizione, Fabrizio. Come dicevi, appunto, sono trascorsi i primi giorni di festival, oggi riparte la seconda settimana piena di appuntamenti importanti, soprattutto internazionali. Abbiamo ospite Milo Rau, che è uno dei registi di punta del momento in Europa, per la prima volta a Roma, con uno spettacolo molto duro che si intitola Five Easy Pieces, che prende spunto da una vicenda di pedofilia degli anni 60 in Svizzera. Abbiamo Tiago Rodriguez, il giovane direttore del Teatro Nazionale di Lisbona, con uno spettacolo davvero curioso, ispirato ai sonetti di Shakespeare, che promette grande partecipazione con il pubblico e gli spettatori. E poi abbiamo Virgilio Sieni, molta drammaturgia contemporanea italiana, Davide Carnevali, e due debutti importanti, Muta Imago con Polises di Sara Giambrotto, e Luca Brinchi, ex Santa Sangre, Daniele Spanò invece con La Ninta, ispirato al poema del Tasso. E ancora poi MK, Silvia Rampelli, danza, performance con gli OHT, musica con i Mocadelic e con la batteria e con Andrea Pesce. Insomma, come sempre cerchiamo di costruire dei percorsi in modo che ognuno trova in qualche maniera il filo rosso che gli interessa di più da seguire, e condivide con noi questo momento, che è un momento di riflessione ma anche di festa, di divertimento e di scambio di idee, di opinione, tutto sempre all'insegna nel tentativo di mantenere vivo il villaggio. Sì, ecco, in parte hai già illustrato una panoramica, però per chi ci ascolta e non conoscesse Shore Theater, l'esperienza di Shore Theater, e anche per i più giovani, insomma, facciamo diciamo anche quali sono gli elementi qualificanti che caratterizzano Shore Theater, Fabrizio. Appunto, gli elementi secondo me importanti sono il fatto che Shore Theater è un festival che si svolge in un luogo che è una sorta di piccola città dove si può stare, si può mangiare. Insomma, l'ingresso, diciamo, a tutta la manifestazione è libero. Poi chiaramente alcuni spettacoli sono a pagamento, alcuni sono al libero ingresso, insomma. Però la cosa importante è che è un luogo di ritrovo, è un luogo di socialità, è un luogo dove appunto è possibile l'incontro, lo scambio, e si facilita, diciamo così, la curiosità e l'appassionarsi a forme e generi, e soprattutto ai nuovi linguaggi, a linguaggi che parlano del contemporaneo, perché appunto è un festival che si occupa di tutto quello che in qualche maniera fa parte della cultura contemporanea, sì, dal clubbing al teatro sperimentale, insomma. Ed è importante ogni momento, dall'intrattenimento all'incontro e alla riflessione. Rispetto alle varie discipline, quante sono le proposte di questa edizione rispetto alle diverse compagnie provenienti un po' da tutto il mondo? Dunque, quest'anno gli eventi sono circa 55, sì, e c'è una massiccia presenza, diciamo così, di spettacoli stranieri, sono più di 16, non sono soltanto europei. Ieri sera abbiamo avuto la Jatai, che è una delle registe brasiliane di punta del momento, abbiamo avuto la scorsa settimana Ferdinando Rubio, che invece fa parte dei nuovi registi drammaturghi che stanno emergendo, diciamo, in Argentina, e poi naturalmente tanta Europa, Francia, Belgio, Svizzera, Croazia, e poi chiaramente molti italiani che non solo, diciamo così, sono noti e conosciuti a chi si occupa di questo, come potrebbe essere Virgilio Sieni, insomma, il direttore della Biennale Danza, o appunto MK, che sono il Leone d'Argento dello scorso anno, ma anche giovani che cominciano ad approcciarsi e cominciano a costruire dei percorsi. Insomma, d'altronde il nostro ruolo è proprio quello, è proprio un po' di mettere insieme cose importanti già consolidate, insieme a compagnie che già, diciamo così, hanno rodato un proprio linguaggio, hanno già un proprio seguito, e a compagnie che emergono e che cominciano, diciamo, a confrontarsi con il panorama. Insomma, penso che questo sia il ruolo di Short Theater, e penso che questo è quello che in qualche maniera attragga anche il pubblico che ci segue, devo dire, sempre numeroso, e di questo lo ringrazio, perché appunto segue con la stessa curiosità e la stessa intensità tutte le proposte che facciamo. Senti, un po' per sommi capi, Fabrizio, qual è lo stato rispetto alla nuova drammaturgia, alla danza e alle commistioni tra immagini e musica ospitate in questa edizione? Ecco, qual è lo stato a oggi, in questa undicesima edizione, di queste diverse proposte culturali? Quest'anno in particolare abbiamo scelto, perché evidentemente è un'urgenza ed è quindi una necessità che si fa sempre più diffusa tra le compagnie, non solo italiane ma appunto anche europee, spettacoli che lavorano moltissimo sulla commistione dei generi, come se appunto la predominanza di un linguaggio fosse in qualche maniera desueta, sostanzialmente, no? Quindi i formati che ospitiamo sono dei formati che non hanno una collocazione immediata, sì. Anche se partono dalla drammaturgia contemporanea, però poi magari, quindi, uno si aspetterebbe che c'è una preponderanza di testo, poi però invece la commissione dei generi e dei linguaggi poi comunque diventa la cifra del palcoscenico di questi lavori, insomma. E quest'anno in effetti diciamo un po' come se la lancetta pendesse di più verso la musica, c'è molta musica dal vivo negli spettacoli e per questo motivo abbiamo deciso che quest'anno avremmo messo anche dei concerti, che è una cosa, un po' una novità all'interno del nostro festival, dei veri e propri concerti di gruppi, che sono comunque dei gruppi che hanno dei percorsi particolari, come appunto i Mocadelic, che di fatto si occupano soprattutto di colonne sonore, no? Hanno fatto i film di Salvatore, se hanno fatto la colonna sonora di Gomorra, la serie, oppure la batteria che ha rifatto la colonna sonora di Amore Tossico, film cult degli anni 80, o lo stesso Teo Teardo, che ha aperto il festival, che ha fatto naturalmente le colonne sonore di Sorrentino e di molte altre persone, ha collaborato con Blix Sabah, che è degli Ice Surgeon, The Noi About, e che in questa occasione invece ha accompagnato un film di animazione fatto da un'artista romana che si chiama MP5 e che ha aperto proprio il festival. Senti, per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Beh, diciamo intanto il sito www.shorttheater.org, e poi naturalmente la pagina di Facebook, che è sicuramente lo strumento più immediato, dove ci sono veramente in tempo reale tutte le cose, diciamo, più interessanti da scoprire, sottolineate e messe, diciamo così, in evidenza, in modo che è semplice riconoscere dove stanno le particolarità della giornata. Ecco, rispetto alla giornata tipo, gli orari vanno da quale, dal pomeriggio? Dalle 18.30 dalle 18.30 alle 22.30 per quanto riguarda gli spettacoli da palcoscenico, sì. E poi dalle 22.30 naturalmente cominciano le attività da, diciamo, che noi definiamo dopo festival, quindi concerti, clubbing e le installazioni permanenti, che invece naturalmente possono essere visitate da quando apriamo fino a quando chiudiamo, che sono le 3, le 4, insomma, questo dipende. Bene. Dalle serate. Allora, Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Ripetiamo, undicesima edizione di Short Theater qui a Roma, alla Pelanda, fino al 18 settembre. A risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo. Ciao, un abbraccio.